Buonasera cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Qui da Bruxelles, dallo studio, un saluto da Annalisa e da Michele in regia. Buonasera Michele, grazie per il supporto tecnico questa sera. E buonasera Alessandra, Alessandra doveva essere in collegamento come sempre. Buonasera Annalisa e buonasera cari amici radioascoltatori. Dunque Alessandra, Giro di Boa questa sera continua a seguire gli sviluppi in Siria, un tema che abbiamo trattato più volte nel corso di questa stagione di Giro di Boa. Prosegue da più di un anno lo spargimento di sangue in Siria, il piano di pace dell'ONU e della Lega Araba non è riuscito a porre fine agli scontri tra le forze dei ribelli e le forze del regime di Bashar Assad. Sale la tensione tra Siria e Turchia dopo l'abbattimento il 22 giugno scorso di un F-4 turco da parte della contraerea di Damasco. Il regime di Assad ha schierato 170 carri armati a nord di Aleppo, vicino al confine con la Turchia. Oggi il Corriere della Sera online ha pubblicato un'immagine di un bambino soldato ripresa da un filmato dell'AFP girato vicino al villaggio di Azara durante i combattimenti di fine giugno. C'è questa immagine, è un articolo che parla di bambini soldato utilizzati dai ribelli per far fronte all'esercito ufficiale. Questa sera cerchiamo di fare il punto della situazione con il nostro ospite in collegamento. Il nostro ospite che è già in collegamento telefonico, si tratta di Lorenzo Trombetta. Lorenzo, ci senti? Mi sento. Buonasera Lorenzo, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Lorenzo Trombetta è stato nostro ospite lo scorso febbraio, è collaboratore dell'ANSA a Beirut, corrispondente di Limes per Siria e Libano, scrive inoltre sulla Stampa e l'Avvenire. Collabora anche con Radio e Televisione Svizzera Italiana. Nel 2005 pubblicò da Editori Riuniti Siria nel Nuovo Medio Oriente. Vive nella regione stabilmente dal 98 con brevi soggiorni in Europa. Lorenzo, io avrei una primissima domanda da farti che si riallaccia all'introduzione che faceva prima Annalisa, all'ultima parte, cioè praticamente a quella foto che credo che abbiano visto in molti in Italia, apparsa sul Corriere oggi, in cui si parlava di bambini soldati in Siria, usati a quanto pare dai ribelli per far fronte all'esercito regolare. Cosa ne pensi? Sono fonti attendibili? Ma personalmente per quella foto in particolare non ho le possibilità di verificare l'attendibilità. Ci sono poi numerose notizie che per noi giornalisti, anche se siamo vicini al terreno dello scontro, sono notizie sempre difficili da verificare. Ci basiamo in quel caso sull'attendibilità e sull'incrocio delle varie fonti. Nel caso specifico bisognerebbe vedere quanti ha quel minore, perché spesso in Siria il termine bambini viene usato in maniera a volte impropria sia dagli attivisti che dal regime. Vengono considerati bambini chiunque abbia l'età 18-18 anni. Ora io non so, non è chiaro da quella foto l'età del minore, è un adolescente o poco meno, ed è comunque un singolo individuo. Sicuramente ci sono situazioni in Siria, specie nelle zone rurali, dove i ribelli, che poi non sono altro che disertori dell'esercito regolare e i civili delle zone più colpite dalla repressione, che hanno preso le armi. Ci sono alcune zone, specie di quelle più colpite dalla repressione, dove lo dicono apertamente da molti mesi, anche se il diavolo venisse ad aiutarci, noi accetteremo le loro armi. In questa situazione di estrema disperazione non possiamo giustificare, ma certo dobbiamo contestualizzare il ricorso a persone sotto i 18 anni pur di difendere la propria casa, la propria famiglia e la propria vita di fatto. Spesso parlando con degli attivisti anche molto giovani, mi avevano detto settimane scorse che i loro fratelli più piccoli, appunto minorenni, chiedevano di imbracciare le armi, che una delle regole dell'esercito libero, che è diciamo la piattaforma che raccoglie le varie brigate di ribelli, una delle regole dell'esercito libero è quella di non accettare minori e ancora meglio non accettare persone che non hanno servito nell'esercito regolare in passato, uno perché non sanno usare adeguatamente le armi e poi perché non hanno la preparazione in generale per poter affrontare in modo efficace l'esercito regolare. Nel corso del tempo queste regole evidentemente sono sempre meno rispettate e qui la mia interpretazione a causa della disperazione, non credo che i ribelli, che poi appunto non sono gente venuta da Marte, ma dei siriani, come me e come tanti altri esseri umani, che di fronte alla repressione brutale stanno usando ogni mezzo, non per offendere e per cambiare chissà quale qualche sistema in nome della democrazia occidentale, semplicemente per difendersi e per resistere alla repressione. Ecco, quindi in questo contesto le foto può forse trovare una sua spiegazione, però ribadisco, la foto in sé rappresenta un individuo e va verificata, non è detto che sia autentica. Comunque su questo non posso pronunciarmi in maniera definitiva. Lorenzo, vorrei tornare su un punto cui accennavo nell'introduzione, la crescente tensione tra Turchia e Siria. Turchia, ex alleata della Siria, dopo l'inizio delle rivolte contro il regime di Assad nel marzo dell'anno scorso, la Turchia è diventata molto critica con Damasco. Dopo l'abbattimento dell'F-4, la Turchia ha schierato batterie antimissile, carri armati e truppe lungo il confine con la Siria. La NATO stessa ha condannato l'attacco dopo che la Turchia ha chiesto consultazioni secondo l'articolo 4 del trattato di Washington. Kofi Annan ha parlato del rischio che il conflitto interno al paese si possa estendere alla regione. Ti vorrei chiedere se tu lo ritieni possibile e quali secondo te possono essere le implicazioni di questa escalation di tensione tra Turchia e Siria. No, non lo ritengo possibile, non credo che il conflitto attuale in corso, tra l'altro ricordiamolo, sono più di 15 mesi, quindi diciamo la regione è stata messa alla prova ogni giorno da un'eventuale tracimazione del conflitto oltre i confini siriani, eppure fino ad oggi, a parte qualche incidente in Libano, anche in Turchia, e l'afflusso notevole di profughi, però dopo più di un anno dobbiamo testimoniare il fatto che la questione siriana rimane, almeno per quanto riguarda i combattimenti, gli episodi di violenza, rimane scritta ai confini siriani. Il caso della tensione politica tra Turchia e Siria, sottolineo politica perché al di là della retorica, al di là delle azioni piuttosto dure da parte del premier turco Erdogan, del presidente Gül, in generale di tutti i politici di Ankara nei confronti della repressione siriana e del Damasco, in particolare nell'ultimo episodio dell'abbattimento dell'F-4, tutto questo però è rimasto anche qui limitato a uno sfoggio di retorica, a un mostrare il muso verbale. Non a caso quando Ankara ha fatto appello alla NATO ha ricorso all'articolo 4, non all'articolo 5, che l'articolo 5 invece prevede l'intervento a sostegno di uno dei paesi membri dell'Alleanza Atlantica da parte degli altri paesi membri, mentre si sono limitati a una richiesta di consultazione, e d'altra parte gli altri paesi alleati della NATO non hanno fatto altro che esprimere solidarietà alla Turchia, ma insomma tutto questo è rimasto in fondo molto molto circoscritto. Poteva esplodere la Turchia poteva rispondere, poteva comunque, se voleva, alzare veramente i toni a livello militare, aveva tutte le carte per poterlo fare. Poi ovviamente il dispiegamento di carri armati da una parte e dall'altra, di batterie antiaeree da una parte e dall'altra del confine, anche qui sono dei gesti, sì sul terreno, ma di fatto sono dei gesti che hanno valore diplomatico e politico. Non possono non farlo i turchi, non possono non mostrare i muscoli, anche perché pubblica interna a cui devono rispondere, però non è nell'interesse della Turchia far scoppiare un conflitto a ridosso del suo confine meridionale, dove tra l'altro, questa è la questione forse più cruciale, ci sono centinaia di migliaia di curdi che in Siria non, sì, sono per la caduta del regime di Bashar al-Assad, ma fino adesso di fatto si sono schierati in modo molto prudente a fianco dei rivoluzionari anti al-Assad, e le brigate dei ribelli a maggioranza curde sono davvero molto poche. E questo la dice lunga sul fatto per quanto il ruolo curdo in quella striscia di territorio, che è quella a ridosso del confine con la Turchia, sia cruciale. D'altra parte bene che sostenere apertamente anche a livello militare la rivolta siriana possa dare man forte all'aspirazione autonomista dei curdi siriani, ma anche a questo punto curdi che sono nella parte sud della Turchia, e che quindi si potrebbe riaccendere un fronte che certo non sarebbe molto comodo ad Ankara. Ultimo aspetto di questo puzzle turco-siriano è la questione del PKK, che in Siria l'ala siriana del PKK sin dagli anni 80 era stata da Damasco in funzione antiturca, prima di arrivare agli accordi di Adana nel 98-99, quando poi di fatto Ankara e Damasco siglarono la pace, ma la pace imposta da Ankara a Damasco, e non a caso in quell'accordo fu anche siglato la consegna di Abdullah Öcalan da Damasco alla Turchia. Poi sappiamo che Öcalan scappò, arrivò addirittura in Italia via Mosca, ma dietro l'arrivo in Italia di Öcalan, il leader del PKK curdo, c'era proprio l'abbandono di Damasco della formazione del PKK, perché Öcalan tra l'altro è rifugiato in Siria da molti anni. Ecco, in questo periodo sono state segnalate delle attività paramilitari del PKK alla siriana proprio a ridosso con la Turchia e contro dei militari turchi, azioni di disturbo. Non a caso la Turchia è tornata a bombardare delle postazioni del PKK tra l'Iraq e la Turchia, che è un po' l'estensione del confine tra Siria e Turchia. Sono tutti infatti che vanno collegati l'uno con l'altro, perché non è un caso che il PKK, che sia in Iraq, ritorna a dare fastidio ad Ankara proprio quando Ankara alza i toni contro Damasco. In questo senso io direi che adesso la situazione fra Turchia e Siria rimane tesa, ma soltanto a livello politico. Il piano di pace dell'ONU e della Lega Araba non è riuscito a porre fine agli scontri. Sabato scorso c'è stato anche un meeting, ma a quanto pare un nulla di fatto, in quanto Russia e Cina mantengono il loro riservo. Secondo te nelle prossime settimane o nei prossimi mesi ci potranno essere dei colpi di scena o dei negoziati che porteranno a qualche cosa e dunque che in un certo qual modo termineranno, porranno fine al conflitto? Ah, innanzitutto una notazione terminologica: si parla di piano di pace quanto riguarda il piano elaborato da Kofi Annan, lui stesso ne parla in quanto piano di pace, e ricorda un po' tutta la retorica che da decenni avvolge la questione israelo-palestinese. Si parla di piano di pace quando poi di altro parliamo. Il piano di pace di Kofi Annan sostanzialmente sono 6 punti che il regime siriano ha sulla carta sottoscritto, e sono 6 punti molto semplici. In primis, il ritiro delle truppe pesanti e non da tutte le città, sostanzialmente la fine della repressione, perché la fine della repressione consentirebbe anche ai ribelli di abbandonare le armi, perché i ribelli hanno preso le armi in conseguenza della repressione di manifestazioni che, lo ricordiamo, erano per molti mesi sono state pacifiche. Il ritiro delle truppe, questo non è avvenuto, davvero sarebbe la chiave di volta di tutta la questione. Ma il regime di Bashar al-Assad, che sin dall'inizio ha usato la logica della violenza per reprimere delle manifestazioni che chiedevano di fatto delle riforme, e il regime non può essere riformato, quindi chiedevano la fine del regime. In questa situazione chiamare piano di pace è appunto di un conflitto fra due parti, in un certo senso anche un conflitto tra due forze equilibrate, è che entrambi devono abbandonare le armi l'uno insieme all'altro. Di fatto sul terreno questo non è possibile, né spiegarle alle parti. Chi conosce la situazione siriana, e credo che i consiglieri di Kofi Annan la conoscano bene, sanno che il piano Annan Scarpe è un ottimo piano per risolvere la situazione, ma sul terreno si è rivelato completamente fallimentare. Di più, chiamarlo piano di pace davvero sembra una formula evergreen, sempre verde, che vale un po' per tutti, ma di fatto non vale per nessuno. Nei prossimi, diciamo nel breve termine, ci possono essere dei colpi di scena. Forse l'unico colpo di scena, visto il ruolo russo da voi evocato, sarebbe quello di concedere, e questo dovrebbero fare le potenze occidentali, alla Russia quelle garanzie fondamentali che consentirebbero a Mosca di cambiare atteggiamento. Mosca non ha a cuore il regime di Bashar al-Assad in quanto tale, ma ha a cuore interessi militari, economici, strategici. Ricordiamo, la Siria è l'unico ormai paese del Mediterraneo e del Medio Oriente che consente a Mosca di arrivare in questo nostro grande mare. Se cambia regione di Bashar al-Assad, pensano a Mosca, ci sono molte probabilità che cambia anche la posizione russa, ovvero che è indebolita la posizione russa. E visto che la Russia continua a sostenere il sistema di Bashar al-Assad e questo continua a uccidere civili, noi continuiamo a domandarci come possiamo fermare questa, forse sarebbe bene cominciare a dare alla Russia delle garanzie che il post Bashar al-Assad, gli interessi russi in Siria non verranno toccati. Forse è il prezzo che l'Occidente deve pagare per mettersi alla mattanza. Se a Mosca gli si dice state tranquilli che le basi di Tartus, la base navale di Tartus, la base aerea in mezzo al deserto vicino a Palmira, tutte le commesse militari i cui contratti sono stati siglati negli anni scorsi e quelli a venire, e i contratti dei cinesi con delle risorse energetiche nei pozzi petroliferi della Siria orientale, tutto ciò se viene confermato e ribadito dall'Occidente, forse Mosca e Pechino potranno cominciare a capire che abbandonando Bashar al-Assad loro non perdono neanche. E a quel punto Bashar al-Assad, senza la protezione dei suoi principali re, davvero avrebbe due opzioni: o finire come Gheddafi, oppure cercare l'esilio dorato forse in una dacia in Crimea. Lorenzo, ti vorrei chiedere se internamente alla Siria qualcosa sta cambiando, ossia il regime di Assad è completamente in controllo della situazione, c'è qualche segno di cedimento? Allora, il regime in quanto tale dobbiamo considerarlo un nucleo di 12-15 persone al massimo, per lo più legate da legami clanici, legami addirittura familiari di sangue, fratelli, sorelle, cugini, cognati, e poi piano piano ascendere legami clanici e poi ancora di più ascendere legami anche di potere e economici, però il nucleo di potere è per questo motivo davvero molto compatto. E il regime non è lo Stato, la distinzione fondamentale, lo Stato e le istituzioni, queste fanno tutte parte di un potere formale, apparente, di facciata, che funziona, apparente di facciata nel senso che da decenni serve per legittimare il vero potere, il potere reale, quello della cricca dei 12-15 personaggi di cui Bashar al-Assad è soltanto un primus inter pares. Ecco, lo Stato può non cadere, il regime non può sfaldarsi come è avvenuto in Tunisia, in Egitto, non c'è una distinzione apparato dell'esercito e Presidente della Repubblica come in Egitto, come in Tunisia. Quindi il regime in sé è molto difficile che possa cadere se non con un disfacimento a seguito di una perdita del controllo del territorio molto molto consistente, quindi questi 12-15 personaggi non vedono altra via che la fuga, oppure la morte, oppure un arroccamento nelle regioni alawite di cui loro sono originari. Gli alawiti sono una branca dello sciismo, originaria della regione nord-ovest, della regione costiera. Però in generale la difficoltà dei ribelli, delle opposizioni di alzare la solidità del regime è proprio questa, fondata su un'alleanza familiare clanica molto molto forte. una cosa sta cambiando in Cile, è cambiata già da almeno due mesi ormai, si sta radicalizzando il fronte dei ribelli. Stiamo assistendo, e questa è una responsabilità non solo del regime, ma della comunità internazionale che non riesce a fermare la mattanza, si sta radicalizzando dal punto di vista islamico. Sempre di più i ribelli che hanno preso le armi con un atteggiamento che noi qui in Europa potremmo definire laico o laicista, comunque con un atteggiamento per uno stato civile, per una eguaglianza di tutti i cittadini siriani, al di là di quale sia la loro appartenenza confessionale, religiosa, comunitaria. Ecco, nelle regioni rurali, ma anche attorno alle grandi città, Damasco e Aleppo, stiamo assistendo a una radicalizzazione, ci sono sempre più fondamentalisti ribelli, e non sono soltanto jihadisti che vengono da chissà quale zone del mondo, che ormai la Siria è diventata il nuovo fronte del jihad, ma sono proprio siriani che non vedono altra luce se non quella dell'Islam e del jihad in senso come difesa della propria terra, della propria famiglia, dei propri valori musulmani contro gli infedeli, in questo caso gli alawiti rappresentati dalla famiglia al-Assad. Questo è un fenomeno molto grave che si sta acuendo in molte regioni del paese, e sono sorti ormai delle brigate, dei ribelli che hanno degli slogan, degli atteggiamenti, e compiono degli attentati di suicidio, delle operazioni militari che sono molto molto simili, pubblicano i video su YouTube, molto simili a quelli compiuti in Afghanistan, in Iraq. Questa non è propaganda, queste sono delle vere che si sta materializzando sotto i nostri occhi, e non è così, non era così all'inizio della rivolta, nemmeno all'inizio della rivolta armata, lo stiamo vedendo e siamo tutti molto preoccupati, perché è un fenomeno che si radicalizzando, e sarà molto difficile nei prossimi mesi, nei prossimi anni, anche dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad, cercare di curare questa ferita che presso loro vedono curabile soltanto con il ricorso all'Islam più radicale. Lorenzo, non ci resta che ringraziarti, in quanto siamo giunti in conclusione al tempo che ti potevamo dedicare. Grazie mille per il tempo che ci hai dedicato e per il tuo interessante contributo. Annalisa, vuoi aggiungere qualcos'altro? No, mi unisco anch'io al ringraziamento. Come sempre, Lorenzo, grazie per il tuo contributo, e speriamo di riaverti presto ai nostri microfoni. Buon lavoro. Grazie, è stato un piacere anche per me. Per il momento ti auguriamo buon lavoro e buone vacanze. Alla prossima. Sì, grazie mille. Anche a voi, spero buone vacanze presto. Buonasera cari radioascoltatori, siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Abbiamo commentato con il nostro precedente ospite Lorenzo Trombetta la situazione in Siria, e ora vogliamo commentare con la seconda nostra ospite in collegamento cosa sta succedendo in Egitto dopo l'elezione del primo presidente democraticamente eletto, Mohamed Morsi, esponente di punta dei Fratelli Musulmani, che ha recentemente assunto formalmente i poteri. Infatti il Consiglio Supremo delle Forze Armate ha passato i poteri al neoeletto presidente. E Morsi è un fondamentalista musulmano che ha studiato ingegneria negli Stati Uniti, era stato arrestato due volte sotto il precedente regime di Hosni Mubarak. In un discorso all'Università del Cairo ha dichiarato che tutti gli egiziani saranno uguali di fronte alla legge. Sul piano religioso Morsi ha promesso di non volere trasformare l'Egitto in una teocrazia e di voler rispettare i diritti delle altre religioni. Cioè, nonostante i timori non mancano, e appunto ne parliamo questa sera con la nostra ospite in collegamento. Alessandra, ce la vuoi presentare? Sì, la nostra ospite in collegamento è Silvia Colombo. Silvia, ci senti? Sì, buonasera. Buonasera Silvia, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Silvia Colombo è ricercatrice. Grazie a voi. Presso l'Istituto Affari Internazionali a Roma. Esperta di politica medio orientale, lavora sulle relazioni transatlantiche nel Mediterraneo e sulle dinamiche interne del mondo arabo. Parla correntemente arabo ed ha effettuato diverse esperienze di studio e di ricerca in Medio Oriente. Silvia, partirei subito con un profilo. Chi è Mohamed Morsi, il primo il primo presidente senza stellette dell'Egitto? Allora, Mohamed Morsi è un personaggio diciamo nuovo sulla scena politica egiziana, nonostante appunto, come è stato ricordato, data la sua appartenenza alla Fratellanza Musulmana e al ruolo che questa ha giocato durante i precedenti regimi all'opposizione, un'opposizione non tollerata, un'opposizione per lo più tra la gente a livello di prestazione di servizi fondamentali alla gente. Appunto il ruolo della Fratellanza Musulmana ha permesso a Morsi comunque di presentarsi e di costruire il proprio profilo politico dentro e fuori dalle prigioni, attraverso le manifestazioni, attraverso questa forma di opposizione. Anche la candidatura dello stesso Morsi è abbastanza particolare, nel senso che, come sappiamo, all'inizio, quando la Fratellanza Musulmana e il Partito Giustizia e Libertà, costituito nel 2011 dopo la caduta del regime di Hosni Mubarak, dopo la vittoria dei seggi numerosi della maggioranza dei seggi parlamentari nelle elezioni di dicembre 2011, gennaio 2012, la Fratellanza Musulmana appunto aveva dichiarato di non volersi presentare con un candidato alle elezioni presidenziali. Successivamente aveva cambiato idea, aveva schierato un proprio candidato che era appunto Shatter, il quale però appunto in seguito a una serie di vicissitudini era stato squalificato insieme ad altri concorrenti, ad altri candidati alla presidenza. Di fatto quindi è passata la ribalta, è giunta la ribalta a Morsi come nuovo candidato alla Fratellanza Musulmana, nuovo candidato del Partito Giustizia e Libertà, e che si è che ha combattuto per acquisire il titolo di primo presidente democraticamente eletto dagli egiziani di fronte a un panorama a candidati appartenenti a altri partiti e in un panorama politico estremamente frammentato. Infatti, come ricordiamo, nel primo turno delle elezioni in realtà tutti i candidati, i quattro principali candidati hanno ottenuto risultati molto, molto vicini, segno proprio di una forte frammentazione e polarizzazione del panorama politico egiziano, in un momento particolare di confusione e di incertezza. E al ballottaggio, soltanto con il ballottaggio, si è riusciti a definire meglio il vincitore, si è imposto Mohamed Morsi, anche qui però con numeri molto limitati, perché addirittura il tasso di partecipazione al ballottaggio è stato di molto inferiore rispetto a quello del primo turno. E ancora di più rispetto alle elezioni parlamentari di qualche mese prima, e quindi è possibile dire che soltanto un quarto degli egiziani di fatto ha scelto Morsi come proprio presidente. Molti di questi l'hanno scelto più che altro come volontà di dare un segno di rottura forte con il passato, quindi preferendolo al candidato più vicino ai militari, più vicino al precedente regime, il generale Shafik, e quindi di fatto oggi Morsi si trova a doversi riconquistare un proprio elettorato e soprattutto a dover allargare la propria base tra le persone che non l'hanno votato, tra soprattutto i rivoluzionari e i giovani di Piazza Tahrir. Silvia, secondo te quale ruolo assumeranno ora i militari? Cioè, da un lato hanno formalmente passato i poteri al neoeletto presidente, ma possiamo ritenere che svolgeranno il ruolo che le forze armate normalmente esercitano in un paese democratico oppure no? Sì, ma questo è proprio il passaggio più delicato per l'avanzamento della transizione in Egitto. Non è possibile dire appunto che oggi ci sia un controllo dei civili sui militari, sarà un processo molto lungo fatto di riforme istituzionali, riforme nel settore della giustizia, e questo soltanto in questo modo si potrà giungere veramente a un bilanciamento tra i due poteri, dopo anni e decenni di costruzione di un monopolio, non solo dell'utilizzo della forza, ma anche politico ed economico da parte dei militari. Di fatto nell'ultimo mese, a cavallo proprio tra il primo turno delle elezioni e il ballottaggio, addirittura i militari si sono ulteriormente imposti sulla scena politica egiziana attraverso degli emendamenti costituzionali, attraverso una serie di misure che di fatto hanno svuotato il potere del presidente, hanno ridotto estremamente il suo raggio d'azione e hanno concentrato i poteri nelle del Consiglio Supremo delle Forze Armate. Col passaggio dei poteri dello scorso fine settimana tra lo SCAF, appunto il Consiglio Superiore delle Forze Armate, e il Presidente Morsi, si dimostra la volontà di appunto permettere al Presidente di acquisire maggiori poteri e di attuare questo ribilanciamento. Tuttavia appunto sarà un processo lungo e una lotta che lo stesso Morsi dovrà condurre per guadagnarsi passo dopo passo questi poteri, per ridare legittimità al sistema politico egiziano anche attraverso il Parlamento, che come sappiamo oggi è praticamente disciolto dopo, sempre sotto la decisione dei militari. Quindi la posizione di Morsi oggi è molto complicata, è estremamente fragile, si trova da una parte appunto a doversi misurare con le forze rivoluzionarie che di fatto non l'hanno votato, ma con le quali è necessario collaborare, è necessario trovare degli alleati presso di loro per costruire una nuova classe dirigente e un nuovo Egitto. E per questo appunto sono significativi le prime aperture anche di Morsi a favore delle donne, a favore di un vicepresidente come un primo ministro come Al-Baradei, che ancora deve essere confermato, però insomma sono comunque aperture importanti. Dall'altra parte Morsi è anche combattuto, come dire, è sveso tra due fuochi, e il secondo fuoco è proprio quello dei militari, nei confronti del quale appunto la lotta per il potere è ancora aperta. Cecilia, mi vorrei allacciare a quanto tu hai appena accennato, dunque allo scioglimento del Parlamento. Il Parlamento è stato sciolto, almeno la Camera del Popolo, che è la Camera Bassa, il 14 giugno scorso, in quanto è stata sciolta dal Comando Supremo delle Forze Armate in base ad una sentenza della Corte Costituzionale secondo cui il sistema elettorale misto proporzionale maggioritario non era praticamente valido o non aveva la regolarità del voto. Dunque a quanto pare la transizione verso la democrazia si sta rivelando un processo lungo e molto difficoltoso. Citavi anche prima tu la percentuale dei votanti che al primo turno delle elezioni presidenziali ha votato meno del 50-20 diritto e meno di quanti avessero votato alle elezioni parlamentari. Con questo scioglimento del Parlamento e con questo Presidente che si ritrovano, che come tu hai spiegato non riflette la rivoluzione pienamente, nel senso che non riflette la volontà dei giovani di Italia, come tu dicevi, come vedi il futuro, come vedi possibili nuove elezioni parlamentari organizzate? Ma penso che per appunto molto dipenderà dalla performance proprio del Presidente e dalla sua capacità di creare una squadra di governo affidabile che possa rappresentare tutte le componenti, tutte le anime della società egiziana, che come abbiamo detto è arrivata all'appuntamento elettorale molto in condizione di estrema polarizzazione. Detto questo appunto i Fratelli Musulmani, il Partito Giustizia e Libertà, che è rappresentato dal Presidente, così come in tanti altri paesi, in Tunisia, in Marocco, i Fratelli Musulmani oggi al potere hanno l'onere di governare, hanno la responsabilità forte di traghettare questi paesi verso forme di transizione pacifica, di democrazia, compito estremamente difficile. Quindi quello che è appunto il risultato di possibili e molto probabili future elezioni parlamentari in Egitto, così come negli altri paesi, dipenderà moltissimo proprio dall'operato, dalla performance di questi partiti e dai loro dirigenti, e in particolare anche dalla capacità per esempio di risolvere, affrontare in maniera pronta e decisa le sfide economiche, perché fino ad oggi in Tunisia, in Egitto, e in Egitto insomma siamo ancora in realtà all'inizio di una transizione politica, però appunto ci si è concentrati soprattutto sui temi politici, sulla governance, sulle istituzioni, in alcuni casi appunto l'assemblea costituente e così via. Molta enfasi è stata data alle elezioni anche proprio per l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica occidentale. Del tutto come dire, non affrontata è stata invece la questione economica, la questione sociale della disoccupazione, della povertà, dei giovani che chiedono maggiori diritti, maggiore spazio nella società, che di fatto la questione economica ha rappresentato la scintilla che ha fatto traboccare come dire, ha fatto scoppiare la primavera araba. Quindi la capacità di questi regimi, in un paese poi come l'Egitto, dove appunto la popolazione è estremamente giovane, dove la popolazione con un peso demografico molto forte, con squilibri tra le regioni molto forti, sarà importante vedere come la politica economica dei fratelli musulmani si coniugherà con le istanze degli altri gruppi e riuscirà a dare una risposta ai bisogni della popolazione. Detto questo, i partiti laici, i partiti che non hanno di fatto sfondato in queste elezioni, cercheranno certamente di organizzarsi, di effettuare una campagna più capillare, quindi potremmo aspettarci comunque anche un ribaltamento, un cambiamento significativo nelle prossime elezioni, ma tutto è aperto. Diciamo che da questo momento in poi in Egitto si apre una nuova fase della transizione, in un certo senso si sono annullate le posizioni precedenti, abbiamo un nuovo presidente e si ricomincia da capo. Silvia, siamo quasi giunti in chiusura, io da studio ho un'ultima domanda, sul piano della politica estera cosa ci possiamo attendere, soprattutto per quanto riguarda le relazioni con Israele e con gli Stati Uniti? Questa è una domanda appunto molto ricorrente. Già prima dell'elezione di Morsi, chiaramente l'emergere e il crescere della fratellanza musulmana e degli islamisti in quasi tutti i paesi della transizione in Nord Africa facevano sorgere domande riguardo alla politica estera, in particolare l'Egitto, che appunto rappresenta un po' il cuore della strategia anche occidentale, in particolare americana, nei confronti del Medio Oriente. Fino ad oggi c'è stata una politica estera, come sappiamo, di fatto basata su una triangolazione tra Egitto, Israele e Stati Uniti, quindi una cooperazione con gli Stati Uniti e una pace di fatto, una non belligeranza con Israele in seguito agli accordi di Camp David. Chiaramente con lo scoppio delle proteste in più occasioni la piazza aveva rivendicato una politica estera più indipendente dagli Stati Uniti e soprattutto meno vincolata a Israele, nel senso che più rispondente a quella che è il sentimento dell'opinione pubblica araba, quindi molto più vicina chiaramente alla causa palestinese. Oggi diciamo il presidente Morsi in più occasioni, ancora prima di essere eletto, comunque il partito Giustizia e Libertà ha mostrato una posizione molto cauta rispetto alla politica estera e di certo non dovremmo aspettarci un cambiamento sostanziale a livello di appunto un allontanamento o addirittura una rottura dei rapporti con Stati Uniti e Israele. Questo perché comunque dietro le quinte ci saranno ancora per molto tempo i militari, i quali hanno forti interessi anche soprattutto economici in termini di aiuti a mantenere un rapporto forte con gli Stati Uniti e chiaramente anche una certa stabilità e pace a livello regionale. Vista proprio la fragilità interna, l'Egitto non potrebbe chiaramente permettersi in questo momento di scatenare tensioni con il vicino israeliano. Detto questo però potrebbe cambiare, questo molto probabilmente succederà, proprio il modo di condurre la politica estera. Quindi mentre prima la politica estera era al di fuori del radar, per così dire, della popolazione egiziana e dell'opinione pubblica, le decisioni venivano prese quasi appunto in segretezza, senza coinvolgere appunto la popolazione, oggi ci si può aspettare una maggiore responsabilità proprio nei confronti dei sentimenti anche della piazza, quindi almeno una maggiore partecipazione, un maggior coinvolgimento della popolazione, proprio perché in un governo democraticamente eletto ci si aspetta che anche nei confronti di questi punti il presidente e il governo verranno chiamati a rispondere alla popolazione. Siamo giunti in conclusione, non ci resta che salutarci, ringraziarti molto per il tuo interessante contributo. Annalisa, vuoi aggiungere qualcosa d'altro? Silvia, grazie anche da parte mia e speriamo di riaverti presto come ospite. Buon lavoro. Grazie a voi, buonasera, arrivederci. A risentirci, buona serata e buone vacanze. Cari radioascoltatori, siamo quasi giunti in chiusura, ma ci restano ancora... credo quasi una decina di minuti, ne approfitteremo per fare un bilancio degli europei di calcio che si sono appena conclusi con i nostri ospiti questa sera. Beh, come sapete in studio c'è Michele Merloni, il nostro regista, e Maurizio Molinari, giornalista, come sapete curatore della rubrica Onde Corte, che generalmente va in onda dopo Giro di Boa. Buonasera, quindi un ribuonasera a Michele e buonasera a Maurizio. Buonasera. Dunque, Michele e Maurizio, quindi ci ritroviamo ora a conclusione degli europei. Abbiamo iniziato questa conversazione calcistica all'inizio degli europei, avevate fatto delle previsioni. Beh, innanzitutto come valutate il ruolo dell'Italia, l'Italia di Prandelli? Siamo arrivati in finale, forse inaspettatamente, ma nessuno, 4-0 contro la Spagna. Penso che nessuno all'inizio avrebbe potuto pronosticare una finale, almeno in pochi ci avrebbero scommesso. Io devo ammettere che ho completamente sbagliato il pronostico sull'Olanda, che è uscita al primo turno. Delle quattro squadre che avevo detto, in realtà due, la Spagna e la Germania, sono arrivate fra le prime quattro, ma l'Italia e il Portogallo... Soprattutto l'Italia, non so, Michele, non credo che nessuno avrebbe puntato più di un euro. Il nostro storico direttore Roberto Giavi in realtà aveva pronosticato l'Italia vincente, quindi lui l'Italia in finale l'aveva pronosticata, quindi bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. In effetti io l'avevo dimenticato, ma è vero. Io poi avevo detto vittoria alla Germania, ma alla fine la Spagna è stata veramente la più forte di tutti. E, per quanto riguarda l'Italia, è stata veramente una sorpresa un po' per tutti, perché la spedizione non era cominciata sotto i migliori auspici. E poi anche perché effettivamente il valore tecnico della nazionale forse è un po' inferiore rispetto a quello a cui siamo stati abituati negli ultimi, diciamo, nell'ultimo paio di decenni. Ecco, credo che si possa dire che Prandelli è riuscito a fare le nozze con i fichi secchi, perché a parte Pirlo, Buffon e De Rossi, grandissimi campioni, gli altri sono o giocatori con grande talento come Balotelli, ma un talento ancora un po' grezzo, o giocatori sì forti come Marchisio, Chiellini, ma ancora piuttosto privi, diciamo, di grande esperienza internazionale. Quindi un grande applauso a Prandelli e ai suoi giocatori, che hanno fatto comunque un bel europeo, soprattutto le partite contro Inghilterra e Germania. E poi la semifinale, nella finale ci siamo inchinati sicuramente alla squadra più forte del mondo. C'è anche stata un po' di sfortuna, credo che se noi fossimo arrivati in finale in condizioni fisiche accettabili forse avremmo perso, però insomma sarebbe stata una partita molto più equilibrata. Certo che veramente a parte non ci si sarebbe aspettato quello che l'Italia ha fatto fino adesso, ma soprattutto addirittura si rischiava di andare fuori durante il girone. La Spagna, che ci ha fatto passare non facendo il famigerato biscotto di cui tanto si temeva, poi ci ha rincontrato in finale, una finale in cui forse Prandelli ha qualche responsabilità per la formazione che ha schierato. La maggior parte dei giocatori che si sono fatti male in quella finale erano giocatori che avevano già avuto precedenti problemi muscolari, probabilmente recuperati troppo di fretta, e schierati tutti insieme, cambi fatti un po' voglio dire, visto il 2-0 si è cercato di rimediare in corsa facendo più cambi possibile, poi ci si è trovati a giocare in 10 e da lì non c'è stata veramente più storia. Bisogna dire che Prandelli ha riconosciuto il suo errore, ha detto che forse avrebbe potuto essere un po' più coraggioso, ed è uno dei primi commissari tecnici, forse io sono abituato a Lippi, che riconosce di aver fatto un qualche errore, anche perché in Italia gli errori al commissario tecnico gli si ricordano molto, molto spesso, insomma, visto che ci sono 60 milioni di persone che hanno un'idea in Italia molto precisa su come debba giocare la nazionale. Forse Prandelli sperava che tra quegli 11 giocatori si fosse creata una specie di aura magica, che tutto gli riuscisse molto molto bene, che potessero ripetere la grande impresa fatta con la Germania. Così purtroppo non è stato, sono arrivati in condizioni fisiche veramente, veramente terribili al grande appuntamento finale. Alessandra, hai una domanda? Sì, volevo riallacciarmi a quanto diceva prima Michele, parlava dell'esperienza internazionale. Sappiamo benissimo che la Spagna che ha battuto l'Italia 4-0, la Spagna che ha vinto un europeo 4 anni fa e una Coppa Mondiale due anni fa, un gruppo molto, molto unito, ma comunque con un'esperienza nelle finali molto, diciamo così, assodata. È questa veramente la cosa che ha mancato all'Italia, oppure c'è anche il fattore psicologico che non erano andati lì per arrivare in finale? Ma secondo me, magari rispondo un attimo, secondo me ci sono generazioni, cioè l'Italia negli anni 80, negli anni 90, insomma, era una squadra che per un decennio comunque ha vinto un mondiale nell'82, era la squadra più forte del mondiale del 90 e è arrivata in finale nel 94. La Spagna in questo momento ha giocatori sicuramente più forti, ma la cosa, diciamo, preoccupante per noi e incoraggiante per gli spagnoli è che gli spagnoli stanno vincendo tutto a livello giovanile, hanno vinto gli europei under 19, credo siano i detentori del titolo under 21, vincono a livello di under 17, hanno una generazione di rincalzi, diciamo, di questi campioni che poi sono anche tutti abbastanza giovani, perché a parte qualche eccezione, Iniesta ha 26 anni, quindi vuol dire è gente che potrà fare almeno un altro mondiale, se non addirittura un altro europeo. Lo scenario per tutte le altre squadre, a parte la Spagna, forse la Germania è un'altra squadra che ha un grande scenario, però insomma gli spagnoli sembrano veramente destinati a dominare il prossimo decennio. Adesso dipende, a livello mondiale bisognerà vedere anche come si riprenderà il Brasile, l'Argentina di Messi, se Messi riuscirà a vincere il mondiale, però... Michele? Sì, un'ultima battuta. Sono d'accordo con te, ho letto da qualche parte che l'Italia nelle classifiche UEFA, quindi europee, per nazionali giovanili è al 17° posto. Credo che questa classifica sia un po' diciamo determinata dal fatto che in Italia storicamente si punta sull'under 21 e molto sull'under 21 e quasi niente sulle altre rappresentative giovanili. Però effettivamente i giocatori spagnoli hanno una grande tradizione, una grande esperienza. Ho letto che i 23 elementi della rosa spagnola insieme avevano vinto più di 200 tornei. Xavi e Iniesta erano alla loro 19esima finale. Invece gli italiani, a parte Buffon e Pirlo, insomma, di finali ne hanno giocate poche. Speriamo per il futuro, perché alla fine in Italia, ecco, i giocatori italiani, anche se magari in questo momento non hanno un grandissimo valore dal punto di vista tecnico, o meglio non si possono paragonare con gli spagnoli, comunque i calciatori italiani tradizionalmente, diciamo, sanno stare in campo, sanno spesso andare al di là dei propri limiti. Vedremo cosa succederà nel 2014, magari in questi due anni le squadre italiane decideranno di puntare su qualche giovane. Speriamo di avere un altro scandalo, in modo che noi, è consuetudine che dopo ogni scandalo facciamo abbastanza bene, visto il calcio scommesse, siamo arrivati in finale, magari fra due anni qualche altro scandalo e lo vinciamo il mondiale, insomma. Molto probabilmente sarà così. Alessandra, un'ultima domanda? Sì, un'ultima domanda, la rivalità italo-tedesca, sempre molto affascinante e produttiva di emozioni in campo. Italia-Germania è andata in scena proprio il giorno in cui si svolgeva il summit, in cui Monti e la Merkel discutevano del salvataggio dell'Europa. Diciamo che forse Monti ha ottenuto quello che ha ottenuto dalla Merkel anche perché l'Italia ha battuto la Germania, non lo so, è una battuta, però insomma in quella serata 2-0 per l'Italia veramente. I tedeschi in questo momento hanno una generazione forse che è superiore alla nostra, e ci sono delle cose che noi dovremmo forse copiare dai tedeschi, tipo il bilancio delle loro squadre di calcio o i loro stadi. Però bisogna dire che forse c'è anche un elemento psicologico quando l'Italia e Germania giocano. Bisogna però dire che l'Italia con la Germania ha giocato veramente molto bene e la vittoria è stata meritatissima. Bene, cari Michele, cari Maurizio, grazie per questo vostro commento sportivo. Alessandra, non ci resta che dare l'appuntamento ai nostri radioascoltatori a settembre, quindi a dopo la pausa estiva, per quella che sarà la settima stagione di Giro di Boa, se non sbaglio. No, credo che sarà l'ottava. L'ottava? Allora mi sono sbagliata. Avevo fatto i calcoli? Ok, l'ottava. Beh, auguriamo allora buone vacanze alla redazione di Giro di Boa, agli amici di Radio Alma e a tutti i nostri amici radioascoltatori. Sì, quindi cari radioascoltatori, a risentirci quindi a settembre dopo la pausa estiva. Colgo l'occasione anch'io per salutare tutta la redazione di Giro di Boa, per salutare Maurizio di Onde Corte, per ringraziare Michele Merloni e Roberto Guidi, i nostri registi. Buone vacanze. Ancora buone vacanze e a risentirci a settembre.